Ce ne parla la storica Christine Bard. È vero che le università sono diventate miste, ma le donne sono ancora pochissime. Quando Marie Curie si iscrive come studentessa, sono circa il 3%. Insomma, appartiene a una ristretta minoranza. E in questa minoranza la cosa notevole è il numero di straniere. La metà delle studentesse è straniera, cosa che viene accettata in modi diversi. A quanto sembra, la vita non è facile per nessuno. Bisogna essere perseveranti. Bisogna credere di essere dotati per qualcosa e bisogna raggiungere l'obiettivo, a qualsiasi costo. All'inizio Marie va a vivere con sua sorella e con suo cognato. Si accorge che sono deliziosi, che sono pronti ad aiutarla e che l'aiutano in tutto, ma così non riesce a lavorare a tempo pieno. E perciò si trasferisce in una piccola mansarda e lavora come credo non abbia mai più lavorato in seguito, con risultati brillanti, perché è la prima nella licenza di fisica e la seconda nella licenza di matematica. E ovviamente viene notata. Insomma, la promettente studentessa Marie viene notata e la Società per l'incoraggiamento per l'industria nazionale le assegna l'incarico di condurre uno studio sulle proprietà magnetiche di diversi metalli. Un professore le consiglia allora di prendere contatti con un fisico che lavora nello stesso campo, un certo Pierre Curie. Un incontro che segnerà le loro vite. Mix 24. La storia. Si incontrarono per parlare di scienza. Pierre ha 35 anni e da giovane aveva scritto in un diario: le donne di genio sono rare. Adesso invece ha cambiato idea. Perché si convince che Maria Sklodowska debba restare assolutamente in Francia per lavorare e dedicarsi alla scienza. Bentornati a Mix 24. Dopo aver passato un periodo di studio in Francia, Maria Sklodowska, molto legata alla sua famiglia, decide di tornare a Varsavia. Vuole mettersi a insegnare per partecipare attivamente all'emancipazione della Polonia. Ma da Parigi Pierre Curie le scrive: sarebbe una bella cosa alla quale non oso credere, passare la vita l'uno accanto all'altra, ipnotizzati dai nostri sogni, il vostro sogno patriottico, il nostro sogno umanitario e il nostro sogno scientifico. A partire da quel momento è iniziata per me una nuova vita, molto diversa dalla mia esistenza solitaria degli anni precedenti. Con i soldi che ci avevano regalato per le nozze, abbiamo comprato 2 biciclette, con cui facevamo lunghe passeggiate fuori città. Nel 1895, in un laboratorio tedesco, si verifica un evento cruciale. Il fisico Wilhelm Röntgen scopre i raggi X. Un anno dopo, in Francia, Henri Becquerel osserva che una lastra fotografica messa in contatto con dei sali d'uranio viene impressionata senza essere stata esposta alla luce del sole. Becquerel scopre che l'uranio è in grado di emettere delle radiazioni di cui si ignora la natura. Delle radiazioni che possono durare nel tempo come se non si esaurissero mai. E Marie Curie decide di dedicare la sua tesi di dottorato, la prima tesi in fisica discussa in Francia da una donna, allo studio di questi raggi emessi dall'uranio. Quella che avete appena sentito era la voce del fisico Étienne Klein. 5 anni dopo il suo arrivo a Parigi, la studentessa emerita accetta la sfida e si dedica ad esplorare le misteriose radiazioni. Il direttore della scuola di fisica e chimica industriale le mette a disposizione un laboratorio di fortuna. Al Museo di Storia Naturale, Marie Curie si procura un gran numero di metalli, sali, ossidi e minerali per misurarne le radiazioni. Ma la giovane fisica non dispone ancora di un vero protocollo di ricerca. Ascoltiamo ancora Hélène Langevin-Juliot, nipote di Marie Curie. Serve un metodo di studio quantitativo di queste misteriose radiazioni estremamente deboli. L'uranio emette spontaneamente delle radiazioni estremamente deboli ed è un fatto straordinario. Le scoperte di Pierre e Jacques Curie sulle debolissime cariche elettriche emesse dal quarzo

Si può anche concepire che in mani criminali il radio possa diventare molto pericoloso. L'esempio delle scoperte di Nobel è caratteristico. Gli esplosivi potenti hanno permesso all'uomo di compiere lavori ammirevoli. Sono anche un terribile mezzo di distruzione tra le mani di grandi criminali che trascinano i popoli verso la guerra. Io sono fra coloro che pensano, come Nobel, che l'umanità trarrà più bene che male dalle nuove scoperte. Le ricerche sulla radioattività si moltiplicano. Fisici come il neozelandese Ernest Rutherford chiariscono poco a poco questo fenomeno allora enigmatico, cioè l'emissione di raggi avviene perché un elemento chimico si trasforma in un altro elemento chimico, una cosa fino ad allora inimmaginabile. Giovedì 19 aprile 1906, Pierre Curie muore in un incidente stradale. Marie, cui è nata da poco la seconda figlia, Eva, è distrutta. Così scrive nel suo diario. Mio Pierre, ti ho aspettato per ore mortali. Mi hanno riportato degli oggetti che avevi addosso. La tua stilografica, le tue chiavi, il tuo orologio. Questo orologio che non ha smesso di funzionare quando la tua povera testa ha ricevuto il colpo terribile che l'ha schiacciata. È tutto ciò che mi resta in cambio dell'amico tenero e amato con cui contavo di passare la vita. Qualche mese dopo il dramma, Marie Curie riprende la cattedra del marito alla Sorbona. Nel novembre 1906 tiene la lezione inaugurale. Diventa così la prima donna a insegnare alla Sorbona. Nel 1910, con l'aiuto del professor André de Bierne, Marie Curie riesce a isolare un grammo di radiometallo puro un milione di volte più attivo dell'uranio. Pubblica il suo trattato di radioattività, che diventa subito, e resta tuttora, un testo fondamentale in campo scientifico. 12 anni dopo la scoperta del radio, a 43 anni, Marie Curie è uno dei fisici più importanti del suo tempo. Qualcuno la spinge a chiedere l'ammissione all'Accademia delle Scienze, ma un giornale ultraconservatore si chiede: come può una donna entrare in questa venerabile istituzione? Lo stesso quotidiano invita gli accademici ad un voto patriottico a favore di Edouard Branly, uno degli inventori della telegrafia senza fili. Edouard Branly vince per 2 voti. Non è solo il fatto che sia una donna a sovvertire i ruoli sociali tradizionali, c'è anche il fatto che Marie Curie incarnava, insieme a molti altri del suo gruppo, dei valori che erano considerati dei valori antifrancesi, tra virgolette. 12 anni dopo la scoperta del radio, a 43 anni, Marie Curie è uno dei fisici più importanti del suo tempo. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 e al racconto dell'affascinante vita di Marie Curie. Nel 1910 la scienziata si trova al centro di feroci polemiche per la relazione clandestina che la lega a Paul Langevin, fisico sposato, padre di 4 figli, e l'affare Langevin è un vero e proprio scandalo. L'abitazione di Marie Curie è presa d'assedio, dei balordi la minacciano di morte. Marie, da parte sua, minaccia querela contro i giornali più violenti e si rifugia presso degli amici. Ascoltiamo il commento della storica Christine Bard. In questo mondo di uomini resta una donna anticonvenzionale, una straniera costantemente al centro di attacchi politici durissimi. E proprio al culmine dell'affare Langevin, Marie Curie viene a sapere che sta per ricevere un secondo premio Nobel. Così il fisico Etienne Klein. L'Accademia Nobel, recita la lettera, le scrive per suggerirle di non andare a ritirare il premio Nobel, perché lo scandalo è talmente forte che potrebbe risentirne la reputazione stessa del premio. Al posto di Marie Curie, molti sarebbero rimasti sconvolti. Lei invece no, risponde che rifiuta di cedere alla pressione della strada o alla pressione della stampa e va a ritirare il suo premio Nobel a Stoccolma nel 1911.

L'istituto del radio è stata una conquista difficile. Bisogna rendersi conto che la Francia era un paese distrutto. Quando inizia la sua attività, l'istituto del radio praticamente non ha mezzi. I primi tre anni sono fonte di preoccupazioni notevoli per Marie, perché c'è appena quanto basta a fare degli esperimenti e a scaldare i locali. Nel maggio 1921, accompagnata dalle figlie e da Miss Melanie, una giornalista americana diventata amica della scienziata, Marie Curie sbarca nel nuovo mondo, ricevendo una calda accoglienza. Ancora Christine Bard. Marie Curie ha avuto un notevole sostegno da parte delle femministe, soprattutto americane. Negli Stati Uniti le donne hanno appena ottenuto il diritto di voto, il femminismo è molto attivo, molto più che in Francia. La Curie osserva queste lotte senza diventare mai una militante. L'esempio della sua vita e il suo successo intellettuale rendono un enorme favore alla causa delle donne. La donna più celebre del mondo, come la definisce Miss Melanie, viene invitata alla Casa Bianca e riceve dalle mani del presidente Harding un grammo di radio finanziato dalle collette delle donne americane. A Pittsburgh, in Pennsylvania, dove stringe contatti preziosi con il mondo imprenditoriale, nota con orgoglio che i procedimenti che ha messo a punto per isolare il radio sono utilizzati a uno stadio industriale. A Chicago, in Michigan, l'importante comunità polacca la accoglie con calore. Ma questa maratona di 6 settimane, in cui si susseguono conferenze, visite e raduni, si rivela massacrante. La sua salute si deteriora ulteriormente. Il suo obiettivo era l'esplorazione del radio e della radioattività. A lei interessava solo questo e per conseguirlo si è servita del fatto di essere una donna. Ha sfruttato i media nonostante fossero contro di lei e anche negli Stati Uniti e durante il viaggio è riuscita a mettersi tutti in tasca per portare al successo il suo progetto. Era una persona dalla forte personalità, con una determinazione incrollabile e niente poteva bloccare. All'inizio degli anni 20 l'economia riparte. A Marie Curie cominciano ad arrivare donazioni private in natura e in materiali. L'istituto del radio si sviluppa rapidamente. Al suo interno si fronteggiano due padiglioni. Uno è destinato allo studio fisico-chimico delle radiazioni, l'altro al loro studio biologico. Le virtù terapeutiche del radio per distruggere i tumori maligni sono note da anni, ma c'è ancora molto da fare prima di riuscire a padroneggiarne l'utilizzo. Il dottor Claudius Regaud e Marie Curie creano un dispensario per curare i malati di cancro. Ben presto il Dipartimento di Radioterapia registra le prime guarigioni. Si capirà quanto mi fosse cara l'idea che la nostra scoperta fosse diventata un beneficio per l'umanità, non solo per il suo grande valore scientifico, ma anche per il suo potere e la sua efficacia contro il dolore umano e contro questa terribile malattia. A metà degli anni 20 l'estrazione del radio si intensifica. Negli Stati Uniti, nel Canada, ma soprattutto nel Congo belga, quando esce dalle fabbriche e dai laboratori, il radio diventa quasi un oggetto mitologico. Gli vengono attribuite virtù di ogni tipo, prima di essere vietato nel 1937 e di essere riservato al solo uso medico. Il radio provocherà centinaia di morti. Fin dal 1920, del resto, la stessa Marie Curie descrive a sua sorella Bronia i sintomi allarmanti dell'elemento chimico. Sono gli occhi e le orecchie ad avere più problemi. Gli occhi mi si sono molto indeboliti. Quanto alle orecchie, mi perseguita un ronzio quasi continuo, spesso molto intenso. Mi preoccupa molto perché può interferire con il mio lavoro. Forse il radio ha qualcosa a che fare con questi disturbi, ma non possiamo dirlo con certezza. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24. 10 anni dopo la difficile ripresa del primo dopoguerra, Marie Curie ha fatto dell'Istituto del Radio una scuola internazionale della radioattività, dove arrivano ricercatori e tecnici del mondo intero. Sentiamo la storica Bernadette Bensaud-Vincent. Molte donne hanno lavorato all'Istituto del Radio e poi sono tornate nei loro paesi, dove magari hanno creato a loro volta degli istituti di radioattività. Ecco perché Marie Curie ha contribuito, anche fuori della Francia, a far entrare le donne nella ricerca, rendendole partecipi della promozione della ricerca sulla radioattività. Quella che chiamano affettuosamente la padrona dedica molto tempo a scrivere all'università, alle fondazioni, a industriali e filantropi per garantire all'istituto un finanziamento che di anno in anno va comunque conquistato. Il suo pensiero in una lettera che Marie Curie invia alla Facoltà di Scienza dell'Università di Parigi nel 1930. La nostra società, in cui regna un aspro desiderio di lusso e di ricchezza, non capisce il valore della scienza e che questa fa parte del suo patrimonio morale più prezioso. Nei poteri pubblici, nella generosità privata, accordano attualmente agli scienziati l'appoggio e le sovvenzioni indispensabili per un lavoro pienamente efficace. Vede realizzato uno dei sogni cui tiene di più, l'inaugurazione dell'Istituto del Radio di Varsavia. Malgrado la sua avversione per i ricevimenti ufficiali, Marie Curie viaggia molto. Cecoslovacchia, Inghilterra, Spagna, Brasile, Italia. Durante questi spostamenti, che pure sono terribili per la sua salute, non manca mai di scrivere alle figlie. Sono stravolta dalla vita che conduco e incapace di dirvi qualcosa di intelligente. Mi chiedo quale vizio fondamentale alberghi nell'organizzazione umana perché questa forma d'agitazione sia in una certa misura necessaria. Ma sono innegabili la sincerità di tutti coloro che fanno queste cose e la loro convinzione che bisogna farle. Marie Curie sarà a lungo l'unica donna a partecipare ai cosiddetti consigli di fisica e chimica creati nel 1911 da un industriale belga, Ernst Solvay. Antenati dei moderni convegni scientifici, questi consigli permettono progressi decisivi nel campo della fisica moderna grazie al contributo di studiosi di primo piano, tra cui 40 premi Nobel. La velocità con cui si è sviluppata questa storia è decisamente affascinante. Nel 1906 c'è la prova sperimentale che l'atomo esiste. Si crede che sia una sfera dura. Nel 1911 si capisce che non è così, è composito. Al centro c'è un nucleo circondato da elettroni. Un po' più tardi si capisce che nel nucleo ci sono dei protoni e dei neutroni. In seguito si scopre che gli elettroni, che girano intorno al nucleo, non girano seguendo le leggi della fisica classica. L'atomo non è un oggetto che si possa descrivere con le conoscenze fisiche dell'epoca. È proprio nei consigli Solvay che alla fine degli anni 20 Albert Einstein, Niels Bohr e altri elaborano la nuova fisica quantistica che permetterà di addentrarsi nell'atomo e nelle particelle. Marie Curie e Albert Einstein in realtà non si trovano a collaborare su queste questioni teoriche, ma allorché all'orizzonte si profila una nuova catastrofe, si arruolano entrambi nella Commissione Internazionale di Cooperazione Intellettuale, un organismo della Società delle Nazioni destinato a promuovere e sostenere le attività in favore della cultura, della scienza e della pace. Marie Curie disse più o meno: si parla del fallimento della scienza, ma la scienza è opera dell'uomo e di conseguenza non è un'opera perfetta. E aggiungeva: la scienza è stata spesso portata lontano dalla sua strada dall'egoismo nazionale e dalla regressione sociale. E se anche Marie Curie non ha preteso che gli scienziati manifestassero in massa per difendere le sue idee, l'idea non le sarebbe affatto dispiaciuta. Il 29 giugno 1934 Marie Curie viene ricoverata in condizioni critiche al sanatorio di Saint-Sélemons, di fronte al Monte Bianco. Sono fra coloro che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Uno studioso nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come una fiaba.